abitavo talmente vicino dell'ordigno che anche se fossi morto non mi sarei accorto di niente, e mi trovai nel pieno dell'onda d'urto dell'esplosione. Mi trovai direttamente sotto le macerie. 23 dicembre 1984, manca poco a Natale. Il rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Le carrozze sono stracolme di persone, non si riescono nemmeno a contare le valigie. Invadono i corridoi, fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali, ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. Qualcuno porta le fotografie dei nipotini. I bimbi più piccoli piangono, i ragazzi non riescono a stare fermi. Chi legge, chi dorme, chi guarda fuori dai finestrini appannati. Il rapido 904 è come un mulo. Di chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze qualcuno scende, altri salgono. Centinaia di persone. L'altoparlante annuncia un lieve ritardo, ma tutto sembra normale in quella tranquilla serata di fine dicembre. Nessuno nota un uomo sulla quarantina con in mano una grande valigia. La deposita in fretta nella carrozza e svanisce nel nullo. Il treno riparte, sono le 18:35. Da Firenze a Bologna ci sono solo 80 chilometri. Il treno lascia la stazione di Firenze, Santa Maria Novella, sfiora Prato con i capannoni del tessile e si avvia verso il tratto appenninico. Il sole è ormai tramontato da ore. In alcuni scompartimenti le luci sono spente. In altri c'è chi ride, chi discute di calcio e di politica. Il rapido 904 sembra inarrestabile. Alle 18:55 imbocca la galleria tra Verno e San Benedetto Val di Sambro. 18 chilometri, la più lunga d'Italia. Dentro il tunnel il buio è intermittente. Ogni 100 metri le luci delle foto elettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 19:08. Il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella grande valigia posta nel rapido 904 e la forza d'urto è impressionante. La deflagrazione crea uno squarcio enorme nella carrozza di centro del treno. La gente urla come impazzita, apre le portiere, si incammina a piedi lungo la galleria. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta fin quasi al paese di San Benedetto Val di Sambro. Alla fine si conteranno 15 morti, 265 feriti. Antonio Calabro è di poco accanto all'ordigno. Il ricordo me lo dicono più gli altri, perché appunto mentre stavano vedendo la domenica sportiva, passa, si interruppe il video e dissero c'è un'edizione straordinaria per un incidente che è successo, e quindi apparì Bruno Vespa che disse la notizia. E, no, fortunatamente io stavo talmente vicino dell'ordigno che anche se fossi morto non mi sarei accorto di niente, che mi trovai nel pieno dell'onda d'urto dell'esplosione. Mi trovai direttamente sotto le macerie. Lei viaggiava da solo o in compagnia? Viaggiavamo io, mio padre e mia mamma. È facile pensare che in quel periodo, no, l'antivigilia, si va a trovare dei propri familiari che vivono fuori. E infatti io mi trovai a dover viaggiare appunto il 23 per raggiungere mio fratello che lavorava a Milano, per passare il Natale insieme a lui e ai miei genitori, e poi a Capodanno dovevo andare a Parigi dove stava mia sorella, il mio cognato. Il 9 gennaio 1986 il pubblico ministero Vigna firma ordini di cattura tagliate contro il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò e Giuseppe Misso, boss del rione Sanità di Napoli. Nella loro sentenza ordinanza di rinvio a giudizio, i giudici di Firenze scrivono che la strage sul rapido 904 sarebbe stata suggerita con lo scopo pratico di distogliere l'attenzione degli apparati istituzionali dalla lotta alle centrali emergenti della criminalità organizzata, che in quel tempo subiva la decisiva offensiva di polizia e magistratura per rilanciare l'immagine di un terrorismo come unico, reale nemico contro il quale occorreva accentrare ogni impegno di lotta dello Stato. L'iter giudiziario è complesso e non privo di colpi di scena. Al processo in corte d'assise a Firenze, febbraio 1989, il PM Vigna chiede 9 ergastoli per i principali imputati della strage del Rapido 904, sottolineando gli intrecci fra eversione nera, mafia e camorra. I giudici confermano il quadro accusatorio, condannando all'ergastolo i 5 principali imputati: Pippo Calò, il suo braccio destro Guido Cercola, Giuseppe Misso, Alfonso Galeota e Giulio Pirozzi. Viene assolto per insufficienza di prove il killer mafioso Antonino Rotolo. Condanne a 28 anni per Franco Di Agostino e a 25 anni per Friedrich Schaudin, il tecnico tedesco che mise a punto il telecomando utilizzato nella strage del 904. Carmine Esposito, ex poliziotto in strette relazioni con il gruppo di estrema destra I Giustizieri d'Italia e i camorristi della Nuova Famiglia, viene condannato a 4 anni e 2 mesi per favoreggiamento. Analoga condanna per Lucio Luongo, il braccio destro di Giuseppe Misso. Secondo la ricostruzione dei giudici, a collocare la bomba sul treno ci avrebbe poi pensato il giovane garzone del negozio di Misso, Carmine Lombardi, poi misteriosamente assassinato. Dopo la sentenza di annullamento della Cassazione nel marzo 92, viene svolto un nuovo processo che conferma le condanne per Calò, Cercola, Di Agostino e Schaudin. L'ultima delle stragi della strategia della tensione ha dunque oggi una conclusione processuale definita. Un'alleanza stretta tra settori di Cosa Nostra e la camorra napoletana è alla base dell'eccidio sul Rapido 904. Ma esistono ancora zone grigie e altre ancora più buie, quelle che portano ai mandanti della strage di Natale. Neppure 5 processi hanno saputo spiegare a reale movente. Perché un gruppo di criminali mafiosi decide di mettere una bomba su un treno? Qual è il loro progetto? Perché la criminalità organizzata sceglie una strada chiaramente eversiva? Antonio Calabrò è oggi il presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime del Rapido 904. Diciamo siamo stati abbastanza fortunati, tra virgolette, rispetto ad altri processi per stragi, perché abbiamo avuto 7 processi condanne all'ergastolo per la parte della mafia, Pippo Calò, il braccio destro. Ci sono state delle assoluzioni per la parte napoletana, poi anche è stato respinto un appello per la parte politica della versione nera, sempre per quel deputato napoletano. E secondo noi c'è ancora qualche cosa di oscuro, e sarebbe auspicabile forse riaprire le indagini, perché appunto forse la parte proprio napoletana è stata un po' chiusa superficialmente. Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime delle Stragi. Si può trarre un bilancio della stagione, della strategia della tensione? Ma il bilancio è presto detto, ci sono state tutta una serie di attentati e di stragi che hanno causato innumerevoli morti. Tutto ciò che è stato fatto si cerca in continuazione di metterlo in discussione. Vedi anche quello che c'è stato con la sentenza di Cassazione del caso Savardini, questo tentativo di manipolare l'informazione, dando anche una notizia non corretta per quanto riguardava l'esito della Cassazione, ha determinato immediatamente la voglia di riaprire processi, la voglia di rifare e di ripristinare un'innocenza che non c'è nei confronti di Mambro e Fioravanti, che sono gli esecutori materiali della strage. Ecco. E questo viene fatto metodicamente con tutte le vicende che hanno insanguinato l'Italia con le stragi, soprattutto con un silenzio mediatico anche negli anniversari, vedi la strage di Piazza Fontana, quella dell'Italicus, anche questa del 23 di dicembre, c'è un silenzio strano su queste vicende, non si cerca di informare l'opinione pubblica né sullo stato dell'arte dal punto di vista dello stato giudiziario né quantomeno nel ricordo e nella conoscenza di quelli che sono stati quei fatti. Sono nomi di persone comuni, colpite mentre compivano gesti usuali, quotidiani. Nomi e cognomi messi in fila uno dopo l'altro, servono a ricordarci che la memoria a volte ritorna e lascia tracce spesso indelebili. Giovan Battista Altobelli, Anna Maria Brandi, Angela Cavalese, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Nicola De Simone, Susanna Cavalli, Lucia Cerrato, Pierfrancesco Leoni, Luisil Matarazzo, Carmine Moccia, Valeria Moratello, Maria Luigia Morini, Federica Taglialatela, Abramo Vastarella.